Attenzione, canale 10, K. Chi è? Chi è? Chi è? Ma dai, me lo do un controllo. Me lo do un controllo di Radio di Santiago. E di segnale fondo scala. E la radio non si ne va vedemo, ma cosa mai va tu soggio. Che beh, che beh. Ma sto provando una radio, dai. Era solo per provarla perché la sto facendo vedere a un amico. Ah, cappa. E un bel porto la radio. Cappa. Va bene, dai, ti ringrazio Natali, dai, chiudo che devo uscire. Ti ringrazio per il favore. Sì, figurati. Ci sentiamo alle prossime, dai. E ci sentiamo stasera. Sì, ciao Gian. Attenzione 10, c'è qualcuno? Antonio! Hola chicos! Del Super City. Come il mio, MB4 come il mio, basta ti ho detto. Beh, ah, vabbè, no. Siamo di così di f***o. Via, India. Via, cazzo. Prego, c'è, no. Via. Domani ha dato pioggia forse, no? Però in serata. Ha dato pioggia? Domani sì. Ora. Già va bene con il microfono, no? Sì. Ma voi. Come si dice? Adesso aspettano un weekend di meccanico, poi controllo sto cazzo di macchina. Perché intanto mi fa due. So dov'è il procedimento. Tocco la, il cavetto che va alla centralina. Tocco quello e poi si riprende la macchina. Però c'è se qualche filo mezzo andato, mezzo bruciato. Sicuramente c'è qualche falso contatto. Si girano le balle, perché la macchina alla fine cammina bene, cammina a buco. Magari per anche qualche cazzata, capito? E vado a fare i freni di davanti. Ho cambiato gli dischi posteriori, pastiglie, adesso vado a fare quelli anteriori. Se migliora un po' il tempo, a che va per troppo freddo? Per che cosa? Sembra per la pastiglia adesso, di davanti, nella mia. E che cazzo per freddo? C'è freddo qui su? Vabbè. Ma non lo fare stamattina invece. Era incasinato, stava facendo cose e non ha giocato nulla. Fa, non ce l'hai freddo, sì, fuori aveva freddo meno 5, meno 4, cazzo, noi no. Ma infatti adesso, domani ve lo posso, se è buono me li cambio. Sì, fra bisogna farlo, se no, un casino. Lui ha già dato. Ma nessuno lo va a casino. È morta questa frequenza, che me chiede, un po' più di sciurca, non levare la candela e quindi di navi che cose, poi, perlomeno, io non spendo più niente, non me ne frega niente. Che cosa fa? Ho detto che non spendo più niente queste cose, sono soldi buttati, cosa mi ricordo? Non levare la candela, Luca, ma giù mai. Non c'è nessuno, cosa ne può? Andiamo bene, tu da fra, non con cazzo da fa. Ma è morta. Questa cosa, vabbè, me, ogni tanto accendi, giusto, se c'è qualcuno che fa la chiacchierata. Ma non mi interessa più di tanto, capito? Vabbè, certo. Vabbè, cosa fai? Che tutto modificato là, questo microfono. Ma c'è bene, il mio bene esce. Cazzo, una bombetta, questo è tutto modificato. Ma non c'è mancato il tuo microfono, per carità. Sto parlando da lontano, mi. Sono da vedere a un metro dal microfono, c'è un po' vicino in faccia la legge. Fai così. Va bene, che ci vuoi fare? Da che è un po' mal di gatto, ti vado un occhio, ma non mi basta. Questo tempo è Luca, caldo, freddo, è un casino. Andiamo, vabbè, prima troppo poi. Ora il computer sta facendo cosa? Devo prendere la pulizia sul computer, è un casino. Io me lo sto preso uno di scorta. Qua giù tre portatili. Ah, io c'ho quello di Lucia, da capico ce n'è uno piccolo, qui ne abbiamo un altro, via. State nei guai. Ogni tanto mi entra a controllare la posta. E io c'ho due HP, Asus e un Acer. E là c'è un bel computer solo quando si fascia, è un casino. Vagava. Ma là mi doveva chiamare per la televisione. Lui hanno mai chiamato, mi sono pigliato il culo. La gente l'avevo gratis la roba. Ma sta applicati da te la bene. Ma infatti, ho ordinato il coso, il TV box. Ma vabbè, tutti i film YouTube, ragazzo. Filmati di pesca, un bel roba, beh. Che fregappa. Fretta, cioè, prima di avere la base andata a picca, va, zero. E adesso vedo un po'. La settimana prossima si fa qualche giornata di lusso, voglio provare a calamari. E vai. Quindi si finne. Ciao. Ciao Gianni, buonasera. L'ho piazzata quella capsula già, come va? Cosa? Ho messo quella capsula lì in questo microfono, come va? Bene va. Ma ce l'hai fatta? Ce l'hai fatta a farsela stare? L'ha già fatto una modifica, va. L'ho voluta provare a vedere come andava. È forte. gli ho fatto una modifica per farcela stare, se no non ci sta da dentro. Cosa hai tolto la lamiera? No, la lamiera gliel'ho lasciata, gli ho fatto un'altra specie di burchia e gliel'ho adattata, però va bene, dai. È a minimo, eh? Sente male. È forte, e questa come va la radio? Questo è Ruiz. Già va bene. Ma io sto parlando a un metro di distanza, a me. Sente male. Vaporino, vaporetto! Ciao a tu, buonasera. Buonasera a tutti. Accanto a quello con il cielo bruciato, va, Giumi. Come? A quello con il cielo bruciato, va, Giumi. Ciao Antonio! Oh ciao già, buonasera, tutto a posto? Tutto a posto, niente inutile, sono stanco perché ho fatto mille cose oggi. Ciao Giannannini! KK, io dormirò col mio piccino. Anche io col mio piccino. Gabriele, cosa vuoi fare? Vuoi chiacchierare tu di qualcosa? Non è lì. Stavo dicendo già, se lo metto da vicino spacca le orecchie. È forte, Fra, è forte. Ma sulle MB più 4 l'hai messo? Guarda, adesso l'ho aumentato. MB più 4, vedi un po', 1, 2, 3. Benissimo, va, è forte. Cava. 100.000, grazie. L'ho voluto provare a vedere come ti andava questa gabbia. Già va bene comunque, dai. Se non va bene non te ne do di roba. E che apparecchio è? È un MB più 4 modificato e praticamente è stata messa una capsula di un super cedric. Già va bene, dai. Quello mi ha chiesto. Sì, andare già, dai. Andare. La fa spingere. Più che altro era il circuito che poteva andare male per quella capsula, ma ci vedo che va bene. Vabbè, ma qua sul circuito ho fatto una modifica, Ah! Se no al turba, già non è che spinge così, Il ponte l'hai fatto. Come ce l'ho io quando accendo l'altro c'ho la modifica col ponte. E quel ponticello famoso gli ho fatto. Bene, mi sentite voi? Io sì, 9.30 Radio 5. Andà bene. Ma già. Dimmi, Fra. Aspetta che provo quella cosa là, per se funziona. Aspetta, mi sto troppo avvicinando adesso. Così è normale, guarda la differenza, Gianni. Questo qui non è che te la posso dire, tu sei sempre 9.30, Fra. Guarda adesso. Sempre fondo scala, sì. Vabbè, allora non fa. No, che cosa ti dico, sempre fondo scala, sì. Infatti, troppo vicini siamo, un casino. KK. Aspetta un attimo che Gabriele mi è scomparso. Prova l'altro, Gianni. Come devo andare a portare la macchina al meccanico, non sarà la colpa. Prova l'altro, a vedere come arrivi. Aspetta, devo attaccarlo. Andiamo a fare il mio lavoro. Oi. E signor Drodio, abbaccia! Già, stai uscendo malissimo. La stessa cosa di ieri mi è successo. Praticamente mi sono dimenticato di spegnerla. 9.60 stai uscendo. Stavo dicendo, ma sento un rumore strano, cos'è la ventola? Sento un rumore di vento, un rumore... La ventola, così la senti? No, adesso no, a poco fa si sentiva. È una tornata che fa la ventola sicuramente, che li fa fare all'apparecchio, al microfono. Se la lontana la fa più. E come mai a me non me lo fa? Invece io come ti arrivo? Ho fatto una modifica. Adesso che c'hai il marecchino un po' più per forse per lo stesso. Sei 9.50, Antu. Sempre lo stesso, non ho cambiato nulla. No, ieri 9.45 a picchi 9.50, adesso c'è 9.50 a fisso. Va benissimo, va benissimo. E comunque va bene già il tuo, dai. Già, anche la radio. Guarda che stai superando i 9.60, fra, ma attaccato sì. Stai superando i 9.60. No, io sto scendo liscio. No, non sono attaccato già. Liscio, ciao, non è un amplificatore qua. Attaccare, cosa attacca fa? Io il segnale è lo stesso tuo, eh. Allora, tu no, così, 9.50. Tu sei 9.60 passato. Addirittura. Ma tu che radio stai usando? Il baracchino? Scappa. Io sto usando il baracchino lo stesso. Tu superi 9.60. Sei più avanti dell'attacchetto al 9.60. Addirittura. Via. Beh, a te da te. No, che non ve ne più, è 9.30 e boh. Ciao, però vabbè, siamo vicini già, forse anche per quello, dai. Tu sei 9.50, non è che si andava, dai, le luci. Andare, andare. Ciao, un attimo di bianco. Siamo tutti vicini, fra, per quello vabbè. Infatti, è anche per quello. Esitta. Vediamo un po'. Così. Ok, adesso sono a posto. Adesso voglio attaccare con lui, sapere quanto ti arrivo. Aspetta che devo attaccare. Gava. E allora, Tutto gava ai nocchi. Positivo, dai, che è per niente. Oggi c'era un tipo che è di TikTok in live, che è tutto così, tanto che ci aveva la febbre, che è. Come meno. E allora? Anche che ha preso un colpo d'aria, c'è una voce così, yes. Ma tu già non puoi fare lettini anche. Yes, ti ha preso quel colpo d'aria, fatti male ora, poi la voce cristallina, frate. Andiamo. Vabbè. Vabbè Natalia, allora, che ci dice? Fredda per me. Ah, io su Ginocchio non nasce, freddo. Pure Ginocchio gava. C'è caldo. Cavagare. Sì, una tenna di gomma su che scegli. Fatti. Ed è uno che sta di caucciù. Anni per vedere, ma dimmi tu andiamo bene, no? Gianni, e beh, fatta mirai. Non si intendi, no. Papà, non si intendi, no. Ciao Tatalino! Come stai facendo fra con questa radio, con Luis? Ah, sta di mi fare, già, 9.60, sì. Andiamo. Ma ti tocca pagare questo Gianninello, eh. Ah, Gianninello, 9.60, sì, caragare. Tatalino 9.40, caragare. Vabbè, noi siamo anche vicini già, capito? Quindi non è che... ecco perché arrivi forte anche. E tu tocca pagare, questo Gianni, in doppio ruolo. Io sono così per il più basso, sono venuto di qua. Tutti i voti, Gigi, sono anche i magneti di spinaci. Io sono più piccolo di tutti, fra. La mia antenna è nascosta, ho capito ecco perché. Allora Luca, tu sei 9.50 qua, no, ho capito. La radio è buona, un bel segnale, tutto. Fra, 9.50, 9.60, 9.30. Basta segnali, uno radio super 5. Alla fine il segnale è una cosa giusto così qua. Quello che conta è la radio. Tutti uno arriva a casa 9.50, che sarà con la radio di merda. E finisco arriva il segnale 2, segnale 3 e radio bella. E ci ammazzo qua. Due va. Stai arrivando a fondo scala Luca qua. Sì, anche tu Natalia. Natalia sta chiamando la mia compagna un attimo. È normale. Beh, c'è Pubitini, lo so per te. È chiaro che arriviamo tutti bene. Ria, comunque, stanotte la mettiamo in opera, me. O Natali, chissà cosa. Metti i puntelli, mio, sai che ne pare la bovida. Che cosa, tu? Una cosa buona. Ma buona o forte? Buona. La magna? Ria. Che come sta cura S? Una cosa cura S, cura F inizia. Ah, io l'ho fatta, mi è uscita una bomba la mia. Ma fai niente. buona per ome. Io non l'ho mai fatto. Io me l'ho comprata l'altro giorno da Pira, mi hanno fatto fare mezza teglia di quelle piccole e me la Giovanni ha data proprio con voglia. Io me l'ho fatta io e... E ce n'ha tutto quello di chi sa di vita. E ho preso ce n'ha tutto. Come a te su, avete il buccio. E va, la porto io domani. Se buon questo su perdone che ha già buccato, devi uscire una bomba. E che ho fatto quello di oliva, pensa tu come è uscita. E che non ho messo la cipolla. Se mette poi la cipolla usciva ancora meglio, vabbè. Ci vorrebbe la salsiccia fumicata e cipolle, allora si esce number one. Ehi, io la posso una normale e una coraziota domani. Due ne posso, due di. Ma da quell'impasto quanto ne esce? Una teglia ne esce da quell'impasto che ti ho detto io. Se ne vuoi due teglie devi farlo fare il doppio. Adesso vediamo, è che non mi pare un po' purtroppo. Fai due teglie, sono 400 grammi, fai 200 e 200, oppure puoi fare tutte le tasse, 400 e te lo dividi su due teglie tu. Ne metterò così, ne metterò che fatto. Perché non la voglio troppo grossa, a me non mi piace. No, già se giusta, giusta, cioè con due etti. E lo spessore è giusto, non è grossa. A chi grossa ne manca a me, non mi piace. Infatti grossa non la faccio. Ma no, la misura sua, grossa rimane troppo bisante da cui dici. È normale a tu. Ma se tu fai quell'impasto con quella teglia lì, la teglia ce l'hai. E avvenaggio una teglia. È buona la fine, eh. Buona. E ce la vai due ancora meglio, Luca, tu sai che vendi, eh. Ma a buona che ce la posso io, canotti, non mi fate manco male. E infatti, hai ragione, perché la digerisci anche meglio. Chissà cosa di buona, è buona non va in deva, buona. Io tu, una rana, io tu di semini, ma un taradiglia. Non è buono il mio d'oliva. Cambi tu con il mio d'oliva e c'è una bomba e ci vuole aprire. Ricordati il sale, mi. Antu, ci vuole il sale nell'impasto. Già lo so, già lo so. Magari che fruscenti, non vinti. È bel sale, sì, eh. Se non metti sale è un casino. Ma io ho detto un punto, adesso balaccio con il bigliaco, è un gioietto. Non lo tenda a nessuno, se io più poco. Sa che vado a goppi a me, mi viene già non nervoso, non ne va in nulla. Sì che è proprio un sollo, non ne piglia guerra M. Anche il mio è così, colpi da nessuno ne piglia qua. E beh, brutta bestia, c'è la brutta bestia qua, mi dice. Ma chi, quella brutta bestia di Kurt? Sì, quel cagnolino tutto nero. Oggi noi ce l'ho fatto di vista, Frank. L'hai visto? E io ho sempre paura, perché secondo, se non gli piace la persona, gli dice. Perché adora il cane, non hai capito? Ma tutti sono così, eh. Non conviene toccarlo, bisogna sempre chiedere se il cane è tranquillo o no. A me non mi ha mai musicato su un cane, mai. Forse perché lo conosco, mi conosce. E a me veniva a pigliarmi all'ascensore, veniva. Interprete. Magari vede i piloschi che si gira. È diffuso così. Certo, se ne accorgono. Si va a pelle. E allora lo sanno chi è la persona losca. E allora si gira. A me veniva a pigliarmi con un coso, veniva a pigliarmi all'ascensore. Veniva a pigliarmi. Figurati un po'. Lo fa con tutti. Con Marco, con quelli che conosce lo fa, viene all'ascensore a pigliarsi. Cioè, quando è abituato. I doveri di casa, dai. Aspetta un attimo, il controllo del caffè c'è alzato. Che tu non dai un mio, bravo. Scappa. Ma io l'ho fatto adesso con la caffettiera. No, mi piace la macchinetta, perché mi faccio anche il cappuccino la mattina, bello schiumoso, bello ambroso. Perché tu sei con l'ozone. Ma ce l'ho io la macchinetta dei lunghi per fare il caffè, c'ho anche le cialde qua. Ma non la sto usando, ogni tanto la uso. La mia va a cialde a caffè normale, io uso il caffè normale perché prendo quello di Vitali e va benissimo, è buono. Certo, è buono sì. Aspetta un attimo, controllo la caffettina, dai. Quanti ne prendi fra di caffè al giorno? Non c'è più nessuno qua. Attenzione, 10. Ehi, tu, va, sto facendo quelle condizioni là, ci sentiamo dopo. Ehi, ok. Antua! Ehi, avanti! Ehi, stavo cambiando apparecchio, ti ho sentito che se non c'è nessuno non ti potevo rispondere perché ho senza antenna. Vabbè. A chi senza antenna mi intende? Ce l'avevo vicino all'altro apparato, quindi ti sentivo. Pensa tu. Ehi, quando domani non ce la faccio perché sono al verde domani. Poi questi giorni vediamo di salirla a 4 metri, poi vediamo. Cosa c'è domani al verde? Sai che non me l'hanno manco detto ancora. E poi il 7 e l'8 sono a Galtelliso, no? Cioè, ma le prendiamoci, eh? Ascolta, non che bisogna, anzi, non si trabaglia in di nulla, bisogna lavorare pure. Sto scherzando anche. Non ha giubato nulla quasi, ha giubato l'ultimo che l'ho fatto al mano, e boh. Ah, sai che se non... qualcuno mi ha detto forse Massimo Ranieri, qualcuno. Però io non ci credo, boh, non so che cosa sia. Oppure ci esce un... Non lo so. Quando è te lo saprò dire. Perché chi no, caso è durante una sorpresa, mi puro. Aspetta il cellulare, mi sta scrivendo il telefono. Ehi. Tanto. Tanto siamo in base di bisogno poi la pubblicità. Tanto che sono andato a prendere il marsupio. Dimmi, avanti. Dimmi tu. Oh, pompone, oh. Ciao, Anto. Buonasera. Buonasera anche a lei. 9.20 sei con questa antenna? Provvisoria, naturalmente. È buono. E io come sto arrivando? Aspetta, sta arrivando mio figlio. Piccolino di papà. Che stava già camminando, eh? Già non credo che cammina, scusa, eh. Cosa aspetti? Che aspetta 8 mesi che sta camminando. E mi sta venendo gattonando da me. Vieni, tesoro. Vieni, amore, vieni. Che bravo che si mette in piedi. Come sono arrivato a te? 9.25 Radio 5. Ah, vabbè. Nonostante l'antenna sia un cadavere ambulante, va bene. Cavolo, se va bene, alla grande. Ma si è attaccato lì. È messa a 1,5 metri al tetto, figurati. È messa a posto della... Ciao Gianni. Della VHF che prende i francesi, quindi figurati, sono 1,5 metri più basso della mantova. Ma guarda che se quella tu la metti in alto, allora canto bomba. Sì, vabbè, senza mediare, la Mercury, hai capito? Me l'ha prestata, quindi... E ho messo quella, la moto va con la sopra al tetto. Scappa. La Energy è quella un po' più... Ah, quella se tu la prendi, la metti in alto, chissà, pompa un po' in me. Ho già preso preso. Devo dirvi la... Costa 92 euro. L'altro strato, news, in pratica, c'ha 7 metri di radiali e poi 7 metri di stilo. Prendo quella... perché le altre costano tutte 100, qui 192, qui 150, no, hai capito? e io quei soldi non li spendo. Sapo prendere il culo baracchino a un certo punto. Napoli una tenaceria, buone. Guarda. Ma guarda che non ha niente a che invidiare quella che c'hai tu adesso. Quella si è piazzata bene, messa in alto, se ne fottemi. Non so, l'ho già fatto una volta, quella lì della Gran Prix che poi ho regalato a Mario Masse. Ho fatto male a Zaglia lì, la verità, quelli radiali. Sono stata tipo manto, ma sarà stata. Ciao Gianni, avanti, lì. Buonasera, ben sentito. Ciao. Io comunque, se dovessi prendere una antenna performante, o prendo la Grazioli o prendo la cosa, la Superlem, che è affidabile, è costruita bene e ti dura un sacco di anni sul tetto. E poi è molto silenziosa come antenna, non piglia gasini. Anche me, anche mi ha messo adesso. Adesso mi ha dato capito di produttore, c'è una. Non è la Mercury, come si chiama l'altra? Quella che usava quello di Ussi, tale uguale. L'ho messa a un metro e mezzo dal tetto, a fianco c'è la Mantova, e quindi sto usando quella, la Pesuria. Ma la Mantova va ancora? No, non va la Mantova, perché devo aprirla, hai capito? Il discorso è quello, c'ha quelle placchette, hai capito? Il problema sono quelle placchette, se fosse stata la Mantova originale, ci sarebbe stata una cazzata per poterla smontare, invece c'ha le placchette, hai capito? Quelle placche non mollano, cazzo, il discorso è quello, ci vogliono settimane di Coca-Cola come minimo messa all'interno per poter togliere l'ossido e poi sbloccare tutto. Ci sono quelle placche, già lo sai anche tu. Già ne esce. Lo sai cosa devi fare, Andy? Rimetti il CRC e poi dai colpi di martello tutto attorno. Se ne va via la ruggine e poi esce. Glielo va a pagarlo, gli dai dei colpetti, tam, tam, tam, e ne salta fuori. No, non ti preoccupare che ci annisci. Sì, vabbè, adesso vediamo un pochettino. Quando la scendo giù perché ancora è palo l'antenna, A meno che non sono fortunato che in pratica batto la PL, saldo il cavo e ce la porto su tipo sondina, alla bobina, capito? E così non smonto nulla. Cappa, ma Giannici, non ti preoccupare che Giannici, ma tu mi sono andata di Mantova, così c'è quelle placchette che entrano dentro, chi si grungosa, acqua e pizza, si sfilano, ne ci vora, se poi ce l'hai sigillata non è un problema, acqua non è entrata, a meno che non l'hai gragata così, così non va bene. No, io mi ricordo di quell'antenna. Andamè. Aspetta un secondo. Quando l'ho smontata ha avuto problemi, ma poi dandogli questi colpetti con un martello, piano piano ne sono uscito. Cazzo di nescine, da nescine già. Uno tirava il tubo, l'altro dava i colpi e alla fine nesci. Annesci. E l'osso domenica non lo fa uscire. Sì, ma se si gira da me già non è problema. Ok. Cappa. Hai detto che io mi è fuggito. Gabriele! E ho chiuso la porta già, sennò chi tu mi fuggi? Beh, certo, chiudi. Cappa. Vieni da papà, vieni. Ma la modulazione è sempre buona, già. Non è sempre la solita radio, lo sai. Cosa? Non è sempre la solita radio. Ah, un'altra? Eh sì, ma una cannonata funziona bene. E che radio è? Io sono innamorato, anche se però sono innamorato. Ma ce l'ha vedi o te l'hai presa? No, me l'ho data. E che radio è? Lo si può sapere, mandamela. È inconfondibile, cavolo. Però a me piace. Cioè, io ci sono rimasto troppo male quando mio padre l'ha data. Perché è una radio che a me piaceva. Al di là di tutto, che pigliava goibbi e cose. Il gas non può essere perché il gas colpi non è preso. Vabbè, il mio non è preso. Prova a indovinare che cosa è. Ah, 48. Allora. Ma quello modificato? No, questo è originale. Eh? È tutto originale, anche il microfono, ma qualche una gannonata. Però è il modello vecchio come piace a me. No, la 48 per casa non va bene, prendomi il culo. No, è tanto cosa. In macchina va benissimo, ma in casa... Già va bene lo stesso. Io l'ho venduto perché prendevo bene i culti, sentivo che stava tutte le latte dolci. Lo so, ha quel piccolo difettuccio, però come cosa una cannonata. Come Faustino diceva, se lo fosse per questo piccolo difettuccio, che io sarei l'uomo più bello di Sassa. Che cosa? Che piglia coi qui? No, Faustino te lo ricordi, quello che stava con... come si chiama? Con Don Diego. Diceva di essere più bell'uomo di Sassari se non avesse avuto questo piccolo difetto. Che allucinante, ma se fossi in piedi. Patta, patta, patta. Sì. Ciucucciù. Sono diventato. Avanti a dove? A Ciuppelli, di no. No. Simona ha chiamato la Giovanna, invece non sapeva nulla che io già parlavo con Giovanna, capito? Voleva scendere giù a casa sua. A un certo punto gli ho detto, guarda, gli ho detto, scendere giù, detto, è appena diventata, cosa ci vai a fare? Gli ho detto. Tutto lì. Quindi. Ma sempre quella pizzeria la vuoi? C'è un giorno che ha fallito quella pizzeria. Oh, yeah. Stai piano la laspi, non ti preoccupare. E adesso c'è più pizzeria la vuoi? Ti ho detto di no, stai tirando la laspi. Ah, non ti avevo capito. Ha fallito. Gli aveva detto che ha fallito quella pizzeria, ma gliel'ho anche detto io. Ho detto, guarda, quella pizzeria dura 6 mesi, non di più, gli ho detto. E così è stato. 6 mesi, giusto. Eppure gente ce ne andava, boh. Ci andava gente, ma secondo te, cazzo, scusa. Quella pizzeria è come salire su alla Alberghiero, che tu vai a bere in quel circolo, cazzo. Scusa, tale uguale. Vai e ti presenta 2 casse di birra, 2 casse di aranciata, 2 casse d'acqua e cosa ci vai a fare a un certo punto? Ti rimani a casa, no scusa, non è che... Ma dove vado io? Si canta, c'è il karaoke. E molto ti trattiene molto. Qualche notte organizziamo. Dove vado io? Vado d'accordo a Circolo Laconi, già lo sa dove c'è la vicino. Capito? Lì si mangia, metti 10 euro, poi la birra costa 2 euro, il vino costa 2 euro, eccetera, eccetera. Dopodiché, dopo le 4 e 5, cominci a ballare, cantare, eccetera, eccetera. Ti metti a ballare, c'è karaoke, c'è quello che è, e ti diverti. Quindi, spendi poco e va bene. Lo sa Antonio dov'è, quindi è attaccata a casa sua. E a Sogonati si è andata alla bacciccia. Sono andato la tavola, ma mi sono divertito la vetta. Non ho speso quasi niente, perché me l'ha dato gratis tutto, il pranzo. Non ho pagato niente, ho pagato solamente la bere e basta. Mi sono pagato solo la bere. Vabbè, 10 euro a magna, tutto, al pranzo e via. Cos'è accetta sta? Cosa ne hai pigliato da terra? Ho capito. Cos'è tanto antenna, cosa ho pigliato? Antenna dovrebbe essere, cioè, sempre la Mercoli, ma non è la Mercoli, dovrebbe essere la gemella di quella. Non è la 50, ma dovrebbe essere la mezz'onda. Che l'ho piazzata tutta, vabbè, non è che sia originale, è tutta incrociata, ma comunque ho visto che funziona bene lo stesso. Provvisore va bene. Adesso mi sto ordinando l'antenna. Ho chiesto a Fusano la M4, dice che costa 90 euro. Adesso vediamo un po'. Se no mi prendo quell'antenna dall'altra volta, così c'è la... non la turbo, no, la Tornado 5 ottavi, 7 metri di stilo e 7 metri di radiale. Mi prendo quello 90 euro, più la spedizione sono 100 e qualche cosa. E lui che costa di meno? Gli altri costano tutti 195, 205. Cazzo! Niente, sembra che stai comprando chissà che cosa, cazzo, niente di loro sembra che stai comprando, è patrimonio. Ma non la lasciate a 180, Marzia, ma costa molto di più. Adesso spero, quando scendo giù la Mantova Turbo, di poterla recuperare. Se la recupero, me la tengo di riserva, perché costa un sacco di soldi la Mantova Turbo, capito? La rifaccio nuova, li faccio basamente in acciaio con una pentola, la faccio tagliare, cose, le metti i radiali, eccetera, eccetera, e quella me la tengo di riserva, e se no sono fregato. Prima no, o ti metti a posto quella, o quella lì è una Energy, quella che ti ha dato, forse Midland è marchiata, no, non è marchiata niente, non è una Energy. L'Energy 5 ottavi c'ha tre radiali, questa non c'ha tre radiali, né niente, neanche il basamento di sotto, quindi figurati, è una mezz'onda. Ehi, già va bene, che... prendi forti i minocchi, non è che stai arrivando piano, no? Vabbè, è il punto che dove l'ho piazzata, che la vetta, è il punto proprio, cioè, due vetti più giù della Mantova, dove ho piazzato l'antenna per la VHF che parlavo con la Francia, installo quell'antenna lì alla stessa altezza, eccetera, eccetera, esce forte. Quindi non lo so, è il punto, gira me, trasferisco la Mantova direttamente lì e se la piglia in culo. Faccio 2,75 di cosa? La sollevo con palo telescopico, va bene così. Poi dall'altra parte ci mettiamo la VHF, quello che è, e se la piglia in culo. Secondo me ti conviene pigliare un'antenna leggera, ti conviene punire, tipo un'antenna che sia buona, che ti resista e via. Non è un'antenna leggera che mi resista, il problema è quando, qui c'è il vento, hai capito? Quindi quando tu prendi, sollevi la Mantova, devi beccare il momento opportuno che non ci sia vento, in modo da poterla sollevare dal palo e scendere laggiù. Perché se parli poco a poco, ti trovi in terra tu insieme all'antenna, hai capito? Il discorso è quello. Ma infatti no, che già non è buono qui antenna pesante. No. Non so quanto va bene quella che ho. Adesso mi trasacco un po' di più e funziona benissimo. E infatti sto facendo così. Sto tirando quella 92 euro che è lunga 7 metri di stilo, 7 metri di radiali ed è leggera, non è neanche pesante, la vedo, non è come la Mantova. Non è come la Super 16 oppure la M5 e la M4, capito? Il discorso è quello lì, che pesano quelle, sono antenne che la verità dura 10-20 anni, quello che è. Però il discorso è quello, come fai? fra cinque decenni ha smontato la cosa, come andava come stavano i rematori, a un certo punto aveva per 60 anni, 65 anni, cosa del genere. Chiamano, come dire, io svuotano tutto, mi vendo tutto e se la prendo il culo, io non ci salgo sopra il tetto. Prima mi piazzavo, adesso non mi piazzo più. Ma capo, se taglio 7 metri radiale sono belli, guardi gli intendi, Antone. Fa 7 metri di stilo e sarà un metro qualcosa di radiale. 7 metri ti si dà di voce, ti si dà da una parte. Ma stai scherzando? Sono 7 metri, cazzo! Sei testato, mica, ma sei testato davvero, te l'ho fatto anche vedere il video, cazzo. Dico l'antenna, mi piazzo quella, 92 euro piene, non me ne frega un cazzo, mi piazzo quella e va a fanculo. Come va bene, come è? Va male, va male. A un certo punto non me ne fotte niente. Sono 7 metri di stilo, 4 radiali da 7 metri, e installo quella. Come cavolo va? Sono 92 euro. Senza a pagare il viaggio per portarmela a casa, e quindi a un certo punto la faccio portare a casa. Una volta non mi stanno, poi vedremo un pochettino se funziona bene, è bene, se non funziona male c'è il cassonetto della Mombetta, qual è il problema? Sono 92 euro pesi, non sono 200 euro e passa, il discorso è quello, io spese così non le faccio più a spendere 200 euro per un'antenna, ma sei scemo, cazzo, no, non esiste, no. A me va bene 92 euro, mi sta bene così, facciamo 10 euro di spedizione, 100, 105, 110, quelli che sono, non mi interessa niente, per me lo sono tranquillo, l'uomo sono di tranquillo e sono tranquillo, fregatelo. Ma dammela a me questa antenna su WhatsApp. Te l'ho mandata l'altra volta, tu ci vuoi che te l'ho mandata, cazzo. Si chiama la New Tornado, hai capito? La New Tornado si chiama. Eia, la New Tornado, sei bravo. Adesso dopo la guardo. Non è come cosa che ha pigliato quello di... come si dice di... adesso mi viene in mente il nome, nel paesino, e mi è sceso in terra, mi è sceso immediatamente, sento un cab. Adesso mi viene in mente il nome, vabbè, se mi viene in mente il nome, io te lo faccio sapere dopo. Non ci dica che lei è salvata, ha avuto un'inculata, il discorso è quello lì. Io dopo la guardo a vedere che cosa è. A me che c'è radiale a 7 metri, no. Scusi, che ora abbiamo andato di vento, lo senti se c'è l'antenna, ma ammazzo se. Guarda, ti ho detto, guarda, ti ho detto la tua volta, guarda, tu non è vero, non è vero. Tu guarda. Guarda che con l'antenna. Eppure dopo la guardo. Va bene. Adesso vediamo un po', domani vado a Giovanna e me la ordino. Questa viene 92 euro, viene, ce n'è una, ce n'è. Quindi 92 più 10 qualcosa di spedizione, viene 100. E sono tranquilla. È bella, c'è i materiali che sono di colore verde e anche lo stilo addirittura. Quindi figurati tu. È bella grande. È piccola, è bella grande. Anche io ce l'ho grande, Antone. È grossa ce l'hai. Ciao Antone. Ciao Natalia. Come mi ascolti con questa aggeggio di antenna? A 2.30, sì, qua. Meglio della Mantova o peggio? No, meglio. Arrivi più forte adesso di prima. Cazzo. Di cosa, differenza? Allora, sono 5 metri da una volta all'altra. Dalla moto va quella lì, 5 metri sono, giusti. Vuol dire che hai indovinato il punto dove metterla, Antonella, perché stai arrivando più forte. Quando scala, ma viene più di quelle tacchette arancioni. Tutto bene. Tu ne hai un cappello. Allora, sai cosa faccio? Appena mi arriva la roba, prendo le calorie lì e faccio un quarto d'onda di... perché di solito bisogna fare così, io non ho mai rispettato la verità. Quindi faccio un quarto d'onda, sono 2,75 da basamento del tetto. E invece l'altra parte ci piazza la... cioè, la VHF, che poi non funzionava nemmeno. Funzionava solamente lì, al posto di questa qua, se non stato, X300. Quindi figura di tu. No, per visionare vuole per forza almeno un quarto d'onda, Antonello. Se no l'antenna non risuona bene. Ma proviamo. Già lo so Natalia, non ti preoccupare, però è strana la cosa, capito? Io mi sono spostato in pratica più giù di quasi 2,5 metri, una cosa del genere, lì, hai capito? E l'antenna, quella che mi ha dato il Gavino, è un metro e mezzo, anzi, è un metro e mezzo dal tetto, figurati, è come se ci avessi una Grand Prix, come facciamo una volta per il tetto, facciamo le radiali, cazzo, erano 50 centimetri cazzo dal tetto, che io sparavo, arrivavo ovunque, parlavo con la Spagna, parlavo cazzo con coso, con nulla, tutto il coso. Sembrava fatta apposta, sembrava. Va bene, come la chiesa fatta adesso va bene. Ok, va bene. Facciamo così, facciamo. Adesso dove poi, quando prendo un altro nuovo, me la sposto. Piazzo il palo lì e dall'altra parte ci metto la VHF. E se la biglia in culo, se prende per se non prende la biglia in culo. E poi mi chiedi controllo a Bombolino quanto gli arrivi. Non lo so, non glielo ho chiesto, in realtà si è aumentato il segnale oppure no. Però l'altro giorno, quando mi ha preso per il culo, cazzo, altro di riserva, dice che arrivavo molto più forte di come arrivavo una volta. Il discorso è quello. E allora c'ho ragione io che mi arrivi più forte, perché mi sta arrivando a fondo scala qua di segnale. È quello che sto dicendo. Hai capito? E quello lì, che ti succede strano, guarda, mi sono spostato, cazzo, quasi un metro e mezzo, una cosa del genere, non di più. Ho avuto il buco, come si dice, il buco proprio per aperto, diciamo. E il corridoio è trovato, giusto, dai. Esatto, sì, bravo. Per la Francia e cose del genere, quindi sono sicuro che mi faccio di ex con i francesi. Cioè, adesso un'antenna la metto da una parte e una la metto dall'altra, così almeno mi faccio di ex. Uno con i francesi e l'altro cazzo me li faccio con i russi, perché dove c'era la matematica prima sentivo i russi proprio a scala, quindi a un certo punto ho preso due antenne. Se fai così, io con questa qui ogni giorno c'è propagazione in banda laterale sul canale di su, sul 12. Sto dicendo, io l'altro giorno sono entrato avanti ieri, cazzo, ma prendo per il culo, cazzo. Ho sentito dice, lo sai che cazzo esce forte la tonnello, sta uscendo. Tutto lì. E tanto sono in zero, c'è poi c'era altra gente, cazzo, eccetera, eccetera. Quindi figurati tu. a un certo punto sembra che abbia beccato il coso, il punto, quello che so io. Sì, stai arrivando più forte di prima ed è mezz'onda quella lì, figurati se lì piazziano a 5 ottavi. Adesso vediamo un pochettino questa antenna qua che mi sto ordinando. 92 euro più la spedizione, vabbè. Vediamo se funziona bene, se funziona bene, se un cesso blu. C'era la M4 della LEM, ho visto non è più in posizione, costa 90 euro, mi ha detto che viene l'ansia. Adesso vediamo, se ne ha una me la prendo subito. 90 euro più, vabbè, facciamo 10 euro di coso, mi sta anche bene. Intanto che serve la Matuba 1, mi pare uguale. Poi c'è la Matuba, c'è la M5 che serve la Matuba 5, e poi c'è la Matuba Turbo con la 16 radiali. Ma non i bigliati turbo che non serve a un cazzo. Il mio ha dovuto rimontare 3 voci io, la turbo. Io sto parlando della Lemme, non sto parlando della Sigma, Natalina. Quella che, hai capito? Della Lemme, la M4, c'è la M5 e la M16, la Super 16, te la ricordi? Quella che usava Corso, adesso mi viene il nome. Che mi hai capito? Non è Mantova, ma è l'M, la Super L'M. C'è la M4 e la M5. Beh, io ho capito, Sandro, stai dicendo. Buonasera, posso parlare un attimo? Ce l'avevo, Sandro Satellite, la L'M. Esatto, sì, Sandro Satellite, bravo, ci sei arrivato. Vanno bene quelle antenne, la verità. Il problema adesso, vediamo se coincide con la... Lei ha trovato sul catalogo, mi viene 90 euro, hai capito quell'antenna lì? Adesso bisogna vedere se è vero oppure no, il discorso è quello. Hai capito? Se la SM4 in pratica serve uguale alla Mantua 1, poi c'è la SM5 e serve la Mantua 5 della LEM, il discorso è quello lì, adesso è tutto da vedere. Poi c'è la turbo è vabbè, turbo vabbè, Super 16 si chiama, ma quella costa 200 passa euro, ma stai scherzando, io mi metto a spendere 200 passa euro per un antenna del genere, non esiste. La 4 piglia, perché le altre sono troppo rumorose, invece quella che ha meno radiali riceve di meno e quindi c'è meno QRM. L'antenna fu silenziosa. Ecco, buonasera Antonello. Ciao Gabi, buonasera, ben ascoltato. Sì, ciao, buonasera Antonello. Allora, quell'antenna che ti ho fatto avere, scusate se mi sono introverso e chiudo subito, quell'antenna che ti ho fatto avere è una Sirio GPS mezz'onda. Sirio GPS mezz'onda, io avevo comprato la Sirio GPS mezz'onda e la Sirio GPS 5 ottavi e poi ho la Grazioli, io nelle altre radio ho la Grazioli, quella con la cui sto trasmettendo adesso è l'antenna, è uguale alla tua, solo che è la GPS 5 ottavi con i 3 radiali. Io avevo preso queste antenne perché volevo fare un esperimento, le avevo prese tutti e due, perché volevo prendere due mezz'onda, però non le avevano, quindi ho preso una 5 ottavi, una mezz'onda, però non la usavo. Io quella lì, e tu hai visto che c'ha lo sfilo che è cambiato, l'ho messo più grosso, perché quello lì, siccome sono antennine, però vanno bene, senza problemi. Qua mi sta arrivando 9 e 20 nel mio QTH, sì, 9 e 20, quelle antenne vanno bene, però l'ho lasciata io un mese sul tetto e mi ha diciamo ossidato lo stilo di regolazione delle stazionarie, capito? Perché l'ultimo stilo serve per regolare le stazionarie. Allora ho dovuto fare un intacchino e togliergli quello che c'era dentro e mettergli dell'alluminio, però è alluminio conduttore quello che c'è, Antone, ed era già tarata per un palo dal tetto di 4 metri e di lì hai stazionare 1 e 1 dal 20 all'1 e dal 20 al 40. Se poi metti un accordatore, quell'antenna lì riceve anche in HF, non è un problema. E riguardo la Tornado, lascia perdere, io avrei tenuto questa antenna qua e non avrei speso soldi di niente, ma proprio 000, perché è un'antenna che rende, questa antenna qua è come il 747, poca spesa e buona resa, io l'avrei lasciata, magari te la prendi, te la rinforzi, fai qualcosa, metti di vitina in acciaio, quello che vuoi, però l'avrei lasciata stare. Va bene, scusate se sono entrato nel 10 e se mi sono permesso, Antonio, di dirti queste cose qua. Comunque la tua è una GPS mezz'onda, si chiama, c'è anche la targhetta. Dai, buonasera a tutti, ciao Natalino, ciao Antonio e ciao Antonello, ci sentiamo alle prossime. Quella lì è una BA27L, però è mezz'onda invece di essere 5 ottavi, Antonè. Ce l'avevo anch'io, già lo sai cosa gli devi fare per non scendere acqua nella bobina, a chi si no, se ti si viene una bobina ad Eva, tassa le stazionarie a 3. Ma guarda, quella lì non ce l'ha quella bobina lì, penso, però una cannonata, funziona molto bene. A me mi sta arrivando a fondo scala, gliel'ho detto che mi arriva più forte di quando c'aveva la Mantova. Io non gliele dico balle, no? No, guarda, secondo me non costa neanche tanto quell'antenna. Funziona alla grande, funziona. Non ti devi truncare un gondo, non ti deve. Se mette una di quelle, secondo me ha risolto anche il problema. Mi la mette con un palo più alto, ha risolto i problemi. Guarda che non è che cambi tanto, alla fin fine. Vuole almeno 3 metri fuori dal tetto, in modo che risumi l'antenna. Poi ha trovato il punto giusto lì, e arrivi un bel focchi. Questa antenna è spettacolare. Ma infatti, io mi sono accorto subito, l'ho detto, una bomba. Qua mi arriva a 9,25 e quando parla manca di più, è una bomba. Cioè, molte volte noi siamo fissati, ecco, molte volte sono antenne che hanno prestazioni allucinanti, che non ti devi neanche troncare il collo a salire sul tetto e pompano i fossimi, pompano quanto una Mantova più o meno, o simile o quasi simile. Vera Franco dice che andava a pigliarsi un caffè, già è poco lungo, visto un caffè. Ma ci siamo solo noi due. E Antonello, io, tu e Antonello. Vera Gianni, vera... tutta piatti, sono attenta che per un cane, i grammazzi. L'ho visto, non ci preoccupare. Kappa. Comunque va alla grande, va. Veramente, veramente alla grande. Antonio. E avanti. Ma si è sentito quello che ho detto, ad Antonello di quell'antenna? Sì, ero fuori che stavo un attimino facendo una cosa. Dimmi. Ma si è sentito quello che la spiegazione che ho dato ad Antonello di quell'antenna lì? L'ho mezzo sentita, no, perché ero un attimino fuori nell'andito che sta facendo cosa. Sì, ma esci vortica, è buona. Vabbè, quindi lui deve sapere, te glielo ripeto, quella lì è una Sirio GPS 5 ottavi. Mezz'onda. Io sto usando la 5 ottavi adesso, perché qua nel Superstar c'ho la 5 ottavi montata. A un quarto d'onda al tetto. No, e vanno benissimo quelle antenne. Lui soldi, secondo me, non ne deve spendere per comprare. Al momento si può usare quella. Quell'antenna lì, se lui la isola bene tra uno stilo e l'altro, e mette le viti di giunzione in acciaio, gli dura 10 anni così com'è, perché gli ho messo l'alluminio, il terminale è un alluminio conduttore, cioè è grosso, è più grosso dello stilo centrale quasi. Va bene, io non la stavo usando perché ne ho preso due, ripeto, la 5/8 e la mezz'onda, però non la stavo usando. L'ho montata sul tetto e me l'aveva marcito la salsedine qua, io sono vicino al mare, e me l'ha proprio, il regolatore stazionale, lo stilo dell'ultimo stilo. E l'ho preso e l'ho dismessa, l'ho proprio dismessa, infatti quella che ho montato qua gli ho fatto lo stesso lavoro di quella, perché altrimenti lo spezza, sono antennine da niente, però funziona, però è un'antenna funzionale, e non è che c'è bisogno di cosa. Va bene, ciao a tutti, ciao. Più avanti due, cambio. È una bomba, Avanti. Ascoltate, controllamelo avanti per favore. Aspetta un attimo, che cambio radio, che sto cominciando un bel di goife. Per favore, lo controllo, grazie. Avanti per il controllo. K di positivo, dai, qua, vicino al mare siamo qua. Adesso ci siamo, sei quasi 9:20 Radio 5. Dove stai parlando tu? Da Lima Delta, da Latte Dolce. Ah, va bene, allora vai, già siamo lineari. Cappa, e ancora non riuscì a comprendere che ho bisogno di golpe. E gli altri che sono? Gli altri amici che sono? Ciao, di Natalino da questa parte. C'era anche Gavino qua, non so se c'è ancora. Gavi, guarda che c'è Tino. Ma non ti vai a fare tu i due. Sono Antonio Coricato, porca miseria. Ciao Natà. Ciao sì. Va bene, Gavi ci sei? Volevo controllare Gavino anche che era più lontano. Se n'è andato. Deve essere che aveva qualcosa da fare. Va bene, dai, va bene. Antonio, ciao Tino, buonasera, con un'altra radio, dai. Cappa, adesso non si capiva bene, comunque sei più di 9:20, sei. Non si capiva bene per cosa lo bisogna dei golpe. Bravo, dai, vi saluta più tardi, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao Tino. Ciao ciao. Cappa. Ma alla stragrande, proprio qua. La boni nel baruaccio, chissà, se ne frega, chissà pompa a voce. Dov'è la brilasciata che pompa alla grande? Lì, dov'è attaccata lì la brilasciata? E allora? Questo se va bene, minchia. Questo mi segnare, cioè già è non che 9:25. Se la mette più un altro mi arriva 9:30 tranquillamente, senza problemi. Perché sicuramente un po' di cosa c'è, cioè, che io sono lontano poi. È un po' una cicottata, non è che cambi molto. No, la 5/8 è più lunga e c'è i radiali, sempre di quella lì, che è come la via 27L, che Antonello la conosce bene. Quella lì è mezz'onda ed è più coscia e non vale i radiali, però per essere una mezz'onda sta andando alla grande. Perché io cosa c'ho secondo te? Noi siamo vicini, Antonello è più lontano, però mi arrivi fondo scala ai nonni, non mi è mai arrivato così. Quando va via la mantova non arrivava così, evidentemente la mantova o era troppo bassa e non aveva il palo giusto, perché vuole almeno 3 metri, vuole, per risuonare bene l'antenna. Magari la mantova era troppo bassa, boh. Sì, ma già ho capito di che cosa si tratta. Come quella che avevo io, solo che la mia era 5/8 e quella di Antonello è mezz'onda. La 5/8 è a 7 metri, più va fare i radiali. Invece la mezz'onda è 5,50 m ed è senza radiali. Però cazzo, è andando in diretta, vedo chi sta Antonello. Deve essere che l'ha messa su un palo che è 3 metri e quindi risuona bene. Sì, ma molte volte qua risuonano più bene quelle che... cioè... cazzo. Io a Mura ci arrivo fortissimo allo stesso, 9,20, cioè che è il più lontano di tutti, eh. Vabbè, dai, io me ne passo in quel rettiano, tu che devo mangiare. Ci sentiamo alle prossime, dai. Eia, ciao ciao, ce lo sentiamo a lì. Avanti Antonio, se ci sei. Chi c'è qua? Babbo Natale. Oh, avanti Babbo Natale. Ciao Antonio, ciao anche Antalino, buona cena. Ci sentiamo. E allora tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto Marino. Ehi Antonello, qui stavo arrivando 9.18, quasi 9.20, eh. E glielo sai dove sono io. Tutto bello spalazzo, meglio gai. E allora, che si dice? Cazzo, una bomba con l'antenna, minchia quanto pompa. Bella, bella, bella, pompa. Deve ascoltare le cose che gli ha detto Calvino, deve ascoltare. Che è ultimo, ultimo, con quello colpo che le ha fatto va benissimo. Se la mette a 3 metri in palo, esce come una belva. Pompa forte, cazzo. Cioè, a 3-4 metri di baro, se ne infischia, cazzo, c'è un bel foce. Beh, lui è in alto, la zona sua è ottima, non è come la nostra, anche la sua è ottima, però lui è molto più in alto, capito? Perché ma tu c'è ancora la stella, quella vecchia. Lo so, io ho la piccola stellina, una piccola antenna, stella, la metà dei radiali, figurati. E vabbè, non mi lamento, la cosa si sfascia la zampella. Quanti anni c'ha quell'antenna? 30 anni. Quanto? 30 anni ce li ha. 30 anni no, però è vecchiotta, l'abbiamo fatto un lavoretto, l'abbiamo ripresa. Prima abbiamo fatto un lavoretto insieme all'amico Bacchisio. Non usciva, ma c'era un piccolo difetto. Abbiamo fatto tutto il cabello, abbiamo saldato così via. E poi stava andando bene, poi l'avevamo scesa, abbiamo fatto un altro lavoretto con quella persona che conosci tu. L'abbiamo piazzato. E già va bene, dai, si sta dando gamba. Che non si faccia, già non temo. Appunto. Stava bene, stava bene. Bene, non c'è nessuno, tutti scappati sono, Natalino a cena, Antonello l'ha chiamato la signora, Gianni ha portato il cane a passeggio, avanti a tutti. Cappa. Vabbè, roba di coi per un biglietto ancora, mamma mia. E come mai? Ci avevi l'altro apparecchio? Ce l'ha la 48. Già lo sai che c'è vicino a te. Ce ne sono due vicino a te. Purtroppo. Cappa. Io ormai sono lontano, non c'è nessuno vicino a me e faccio quello che mi piace. Sì, sì. Ma qua sento tanti uniformi, quindi mi fa così, mi fa. Poi lo sai, apparecchio cambia, con questo colpi già non le prendi. Se quello che apparecchio ci avevi, poc'anzi, ne bidi un bel. Ne prendi parecchio. E domani sto lavorando, al verde. Domani? Sono al verde, lavoro. E allora provati, ma dentro sì, lo sai dove sono io, ma già vengo là, già sono passato io. E com'è che sei ai verdi? Chi ti ha chiamato? Pippi? No, sempre con Rockhouse, sempre con loro lavoro. E poi il 7 e l'8 sono a Galtellì, sono. No, pensavo che ti avessi chiamato Pippi. E lo sai, Verdi e tu ce la luce, l'ha capito. E cosa devi fare? Ecco Antonio. Dimmi. Sì, buonasera, scusa Marino, con la Gavino. Come mi copio questa antenna? Come quella di prima? O meglio, o peggio. Cazzo, detto sia una bomba, sì. Questa qua è la Graffini, io adesso sto a farla solo con 450, MC60 e la Graffini, F10V. Una bomba, anche poco fa, cavolo, non c'è tanta differenza. Vabbè, non c'è tanta differenza perché noi non siamo lontanissimi, però a livello di materiali è tutta un'altra cosa, a livello di materiali è tutta un'altra cosa questa che sto usando adesso. Dai, sono entrato perché io dopo cena uso sempre l'altra radio o l'altra antenna. Sono entrato solo per farti capire la differenza, che lo vedi, il locale è differente, non se ne trovano, almeno che non hai un'antenna che non serve oppure che ti adatta male, e allora di sì, però, vedi. Poco fa io ero con quella di Antonello, e ripeto, ne ho preso due io, ho preso la mezz'onda e la 5 ottavi di quelli lì, e la mezz'onda è arrivata perché non la stavo usando, tanto io mi ho montato la 5 ottavi, poi c'ho anche la Graffioli, quindi non me ne facevo niente, se la prendo l'ho data, cioè se l'ha presa, e gliel'ho fatta avere. Ma per farti capire, lui è tornato, quello, quell'altro, non serve a niente. Va bene, dai, vi lascio al vostro questione. Ciao Antonio, ciao Marino, e ci sentiamo tutto alle prossime. Riprendi Antu, di nuovo con la buona serata. Ehi, ciao Gavi, ci sentiamo alle prossime. Infatti io ho intenzione di comprare quella senza radiale, mi interessa a me, la V10, la Grazioli. Io a gennaio, se va bene, mi compro la Grazioli. Ora, mi ascolti, sì. La Grazioli GT, quella no, con i radiali, però con la carica centrale. Gli metto altri 6 metri di traliccio e mi alzo quella lì, però a gennaio una malattia per queste cose qua, quindi, ma non cambia niente. Io se lui mi aveva lasciato quella lì avrei viaggiato così, perché lui ha un punto buono e non ha bisogno di antenne performanti. Io sono qua dentro un buco ed è un problema, va bene, dai, di nuovo vi saluto e vi auguro buona serata e buona cena. Ciao. Scusate un attimo, io chiudo perché mi ha chiamato il condominio e sto disturbando. No, non ho capito perché, boh, dice che sento la voce mia, quindi a un certo punto stacco, quindi passo in quelli che si ascolto. E perché troppo passa? Non c'è niente quella, fate dire, non disturbava la VHF, cazzo, voi che disturbi la 27, ma stai scherzando? Quindi non è stato un po' bassa, non lo so, dice che le condomini a fianco, quindi non è che sia questo granché, vabbè, comunque sia, ti ascolto, passo, d'accordo, ringrazio, ciao. Gappa, ciao Antone, ciao anche a Marino e a tutti, io vi saluto e ce la riascoltiamo. Ok, riprendo io, ciao Antonio, ben sentito, dai, comunque dice, ciao capito, ben sentito, io, inutile che ti dia il controllo che noi siamo vicini, capito? Adesso mi sta arrivando 9.25, poc'anzi è quasi 9.20, dunque la radio, non sa posso dire che intanto la radio è fortissima, ottima radio, comprensibile, dunque, e io sono ottava, non c'è problema. Ok, beh, stai chiudendo Antonio, io mi sposto, me ne vado sui canali Alti, allora, scusa, me ne vado sui canali Alti, mi faccio un po' di ascolto, poi fino a quando la cena non mi chiamano, non salgo. Ciao, ben sentito, saluto in casa, a domani se coincide, saluto in tutti gli ascoltoni, anche per me, quello si diciamo, dai, ciao. ciao, ciao a tutti, ci sentiamo, ciao. Ciao Mario, buona serata. Ciao Gabi, ciao ciao. Ottima modulazione, bella, forte e potente. Va bene, va bene. Ciao ciao, ciao Gabi, ciao. Ehi, grazie. Ciao Mario, ciao, ciao, buona serata. C'è la voce di un leone. Ti vuoi mangiare il mondo? Ci vuole, ci vuole. Ok, ciao ciao. Dai, grazie a Dio per quello non posso lamentare. Dai, sto parlando anche un po' voce bassa, sto parlando anche un po' voce bassa. Ce la risentiamo Mari. Ciao, ciao, ciao. Ciao Gabi, è che non può crebbia. Ciao ciao. Avanti.